Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi il nostro studio milanese è una dépendance di quello presente al Salone del Libro di Torino, per la buona ragione che a Milano e non a Torino si trova un giovane scrittore debuttante che vale la pena di conoscere, un certo Paolo Rossi. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ciao Pablito. Grazie per lo scrittore. Perché... Scrittore? Beh, scrittore al 50%, adesso vediamo come. Sì. Allora, cominciamo, visto che già per salire qua in studio si sono moltiplicate le congratulazioni per Sofia Elena. Raccontiamo che Sofia Elena ha la bellezza di 4 giorni ormai, mi pare. Ormai sì, è nata domenica. La bimba più piccola. È arrivata a fare compagnia a Maria Vittoria. Vittoria, perché nomi composti o niente in famiglia, mi pare di capire. Noi abbiamo voluto proprio essere, come dire, così ridondanti. No? sono due nomi magnifici. Importanti. Sono da regine. Sì, e sono anche nomi da figli di calciatori di una certa epoca, perché i calciatori attuali mi sembra si sbizzariscano anche i nomi più, un pochino più sì, un po' particolari, po' più strani. Sì, strani. Dunque, la ragione è evidente, cioè la nascita di Sofia Elena domenica ha impedito che insieme a Paolo qua ci fosse anche l'altra debuttante o quasi scrittrice, che è la moglie, che è donna Federica, che ha scritto per l'appunto a quattro mani questo libro con Paolo Rossi, 1982, il mio mitico mondiale, edito da Kowalski, Galassia, Feltrinelli. Io partirei da una cosa che tu scrivi verso la fine, dopo la tua narrazione, dopo il tuo racconto. Tu scrivi: se chiedi a un italiano cosa ha fatto il giorno X dell'anno Y, nessuno saprà risponderti con precisione. Ma se gli chiedi dov'era e cosa faceva nei giorni del Mondiale di Spagna e soprattutto Italia-Brasile a finale, ti risponde a distanza di 30 anni. Io penso non veramente, può sbagliare. No, credo proprio di no. È una di quelle date che tutti hanno impresse nella mente, nella memoria. Sono momenti in cui tutti li hanno vissuti così intensamente, così forte. Credo che nella propria vita sono 3 o 4 date che si ricordano con certezza. Ecco, una di quelle credo insomma, ha ragione, insomma, facendo verifiche quotidiane, che quella sia il mondiale dell'82. Veramente la partita col Brasile, con la Germania, dove eri allora alle 5:30? Io ero tutti si ricordano. Sì. L'idea del libro, se ho capito bene, nasce a tua moglie Federica, perché a distanza di 25, 28, 30 anni eccetera va in giro con te in Italia, nel mondo, e l'assedio di 30 anni fa continua. Sì, 30 anni fa era asfissiante, era spaventoso, insomma, tant'è che le mie prime vacanze ho cercato di farle nascosto sottoterra perché era impossibile. No, la cosa particolare è proprio questa, cioè che spesso i calciatori che terminano la propria attività quando trascorrono 4, 5, 6 anni, si fa un po' fatica poi a ricordare, si ricordano ovviamente quelli che hanno lasciato un sigillo, un segno forte nella storia. Il mondiale dell'82 è uno di quelli, tant'è che proprio con mia moglie non si stupiva continuamente del fatto che la gente mi fermasse, dice: ma com'è possibile? No, dico: è possibile perché quel mondiale, tu che non l'hai vissuto, così in maniera eclatante, è questo, perché è rimasto proprio dentro come una cosa bella. E infatti a distanza di 30 anni, poi in estate, in luglio, l'11 luglio è l'anniversario, il 30° della finale, il 5 luglio sarà il 30° dei tuoi 3 gol a Brasile, insomma, io sono convinto che fioriranno manifestazioni spontanee, perché è nel cuore di tutti, bello, hai ragione. Ma è bello per questo, ieri ne parlavamo, no? Tu sai benissimo che la nostra epoca è un'epoca in cui prevaleva, e ne sono, come dire, soddisfatto di questo, la parte, il rapporto umano. Cioè, questa era la cosa più evidente, no? Quello che si è perso un po' in questi ultimi anni, insomma, ecco. A me è molto piaciuto, leggendo questo libro, che tu sia partito con una formula quasi via il dente, via il dolore, no? È un argomento molto attuale, perché vediamo, basta aprire i giornali di questi giorni, purtroppo di questi mesi. E quindi tu, per arrivare al trionfo, parti dagli inferi, da dove questa squalifica ti aveva precipitato, e la affronti con la massima serenità. Non è semplicissimo questo outing iniziale, no? L'ho trovato coraggioso. Sì, ma non sarebbe semplicissime, non sarebbe coraggioso se tu non avessi la coscienza a posto. Se tu l'hai, non hai difficoltà a parlare di niente, e quindi affronti, certo, anche questo discorso, nonostante sia una cicatrice, come diceva il buon Enzo, che mi è rimasta addosso, certo, no? Lui diceva: quante guerre abbiamo fatto, quante cicatrici abbiamo addosso, no? E le abbiamo passate, però si superano. Ecco, quello è stato un momento difficile della mia vita, un momento in cui ho subito una terribile, tremenda ingiustizia, essendo squalificato per 2 anni per una colpa mai commessa. Commessa, e di conseguenza io a un certo punto mi sono detto: boh, forse nella vita dobbiamo passarne tante, questo è uno degli eventi della vita, e poi evidentemente c'è un Dio dall'assù che ti ripaga tante volte di tante ingiustizie. Certo è che è una ferita che rimane ed è rimasta, anche se, dico, consapevolmente tu, quando sai che insomma non hai fatto niente, non hai commesso niente, insomma sei piuttosto tranquillo e sereno sotto questo aspetto. Certo, aver perso 2 anni di carriera, nel pieno della mia carriera, 24-26 anni, ho perso denari, contratti, tutto quello. Però poi alla fine hai perso freschezza, sì, hai perso condizione, sì, sì, hai perso. Però non era quello che mi è rimasto poi, dopo, è, come dire, il fatto di guardare comunque in faccia le altre persone, che gli altri mi guardassero comunque consapevoli del fatto che ero innocente, che non avevo fatto niente. Ci vuole un carattere enorme, credo, per risalire da lì, e tu evidentemente dietro quest'aria giocosa, serena, sorridente, che hai sempre avuto proprio, sì, come caratteristica tua, evidentemente ce l'avevi. Lì entra in campo quello che è il tuo padre putativo, no? Sì. Tuo e di quella nazionale, sì, cioè, sì, entra in campo l'affetto, sì, e la fiducia totale cieca, sì, che Berzotta, sì, ha in te, sì, evidentemente. E l'umanità sua soprattutto, perché io più volte l'ho detto, Berzotta è stato, secondo il mio giudizio, una persona intanto straordinaria sotto tutti gli aspetti, è stato un grande allenatore, era uno che aveva una competenza specifica nel calcio incredibile. Io ricordo ancora le volte che mi prendeva da parte e mi spiegava nei minimi particolari le caratteristiche dell'avversario. Dove dovevo giocare, dove lo mettevo più in difficoltà, quello che dovevo fare in un certo momento della gara, in un altro se non andava, cioè molti non l'hanno capito, non lo conoscevano, non sotto questo aspetto, non hanno valorizzato aspetto, questo, certo, aspetto. Io, certo, lo posso dire perché ci ho vissuto praticamente per 10 anni a stretto contatto, e questa era una delle caratteristiche forti sue, proprio quello di spiegare amorevolmente, se vuoi, a volte anche in maniera piuttosto dura, certo, quando si animava, quando non rispondeva alle esigenze sue, e tu magari facevi qualche cosa, insomma non te le mandava a dire, te le diceva di santa ragione. Però insomma, voglio dire, questo attraverso il suo modo di fare, il suo carattere anche, io sono rimasto, come dire, a parte affascinato da lui, ma l'ho sempre stimato, perché lui è stata una persona, non credo solo nei miei confronti, ma credo nei confronti proprio di tutti, nella quale ha agito sempre guardandoti in faccia. Se una cosa te la doveva dire, te la diceva davanti, non dietro, certo, apertamente, schiettamente, e lui in quel periodo là mi ha aiutato molto, cioè soprattutto nel periodo della squalifica, in cui mi chiamava ogni tanto e mi diceva: preparati, no, stai tranquillo, stai sereno, che poi vedrai che insomma tu pensa ad allenarti coscienziosamente, poi dopo le cose vedrai che andranno a posto. Forse me lo diceva veramente per incoraggiarmi, e quindi devo dire che Berzotta nella mia vita sportiva e non ha giocato un ruolo fondamentale. Lo so che non si interrompe un'emozione, ma noi abbiamo un obbligo di un minuto circa, sentiamo come va il traffico sulle strade. Il display è letteralmente invaso di ricordi di quel giorno, cioè hanno seguito a te, a Vicenza chiedevano i negozi per vederti giocare i mondiali, grazie, a Vicenza era casa tua, quel giorno ero al Comunale di Torino a vedere i Rolling Stone con Mick Jagger che indossava la numero 20, io ho 12 anni, ero a Selvino, ricordo perfettamente dove ero, scrive Giancarlo Ranapoli, insomma. Cioè, poi magari te li stampo e te li mando, grazie, no? Perché sono comunque, grazie, bei ricordi. Sì, sono bei ricordi. E sono bei ricordi. Poi torniamo a Berzotti, sì, e al Mondiale vero. Sono, sì, bei ricordi, quelli che tu hai assemblato alla fine di questo libro, sì, insieme a Federica, evidentemente, sì, perché proprio questa esperienza di, sì, coinvolgimento di tutti in, sì, quell'avventura, sì, ha trovato una serie di testimonianze che, sì, a 30 anni di distanza reggono. È divertente. Sì, reggono. Abbiamo voluto completarlo proprio perché l'idea nasce proprio dal raccogliere le testimonianze degli sportivi, dei tifosi dell'epoca, e questa era la cosa principale, perché ci avevano sorpreso alcuni racconti così singolari e così caratteristici che a un certo punto vale la pena di raccontarli, di raccoglierli soprattutto in un libro, ma da quelli più curiosi, più strani, gente che con la 500 è andata dritto verso il mare. Io ho trovato un magistrato un giorno che mi ha detto: senti, io stavo facendo l'esame universitario, a un certo punto durante la chiama nell'Ateneo, a un certo punto è saltato fuori il nome Renzetti, poi dopo Renzetti Rossi, Paolo Rossi. A un certo punto si sono fermati tutti durante quel mondiale e hanno applaudito tutti per 5 minuti. Cioè, queste sono cose, capito, che ti rimangono. Certo. E quindi sono veramente curiose queste cose. E proprio come abbiamo iniziato questa trasmissione, dire tutti ricordi dove eri, ecco, tutti si ricordano di quel periodo là. E ci piaceva in qualche modo raccogliere tutte queste situazioni, questi racconti degli sportivi veri, insomma. Ecco, infatti, è una bella chiusa, una bella sintesi finale. Tra l'altro, occupa una buona parte di questo libro, no? Perché arricchisce davvero. Libro che, ripeto, si chiama 1982, il mio mitico mondiale, edito da Kowalski. Torniamo a quel mitico mondiale, Paolo, lo so che per te è una routine della memoria, però 30 anni, non tutte le persone in ascolto possono ricordare come è iniziato. Certo. Allora, se io dico prima partita Italia-Polonia 0-0, sì, prestazione accettabile, sì, discreta, sì. Poi se dico Italia-Perù 1-1, prestazione, parlo di te, negativa, sì, tant'è vero che lo stesso Enzo ti toglie. Sì. Ti sostituisce Italia-Camerun 1-1, diciamo così in lieve ripresa, e poi comincia la cavalcata, sì, Argentina-Brasile, sì, Polonia-Germania. Io amo sempre dire che se c'era la nazionale di Marte, quella di Saturno, in quel momento non ce n'era per nessuno. Allora, concordo. Dentro di te, 30 anni fa e ancora oggi, sì, questa metamorfosi, come accidenti te la spieghi? La tua, perché tua è arrivata quella della squadra. Sì. Sì, non è solo la mia, cioè, no, la mia in particolar modo. In particolar modo. La mia in particolar modo, se vuoi, anche giustificata dal fatto che arrivavo da 2 anni di inattività, certo, quindi con la difficoltà di riprendere a giocare partite vere. Mentre quella degli altri no, cioè era un po' in sordina. Diciamo che abbiamo, come dire, raccolto, tenuto le forze per poi esprimerle e tirarle fuori nel momento opportuno. Sì, forse è andata così. Forse la prima fase, senza forze, anzi, c'era il timore, la paura di non passare il primo turno. Poi, una volta passato, come dire, le acque si sono aperte, nel senso che a quel punto non avevamo più niente da perdere, ci giocavamo a viso aperto contro qualsiasi formazione avessimo di fronte, e ce la siamo giocata comunque tranquillamente. Però è successo che scatta a un certo punto un tic nella propria testa, in cui tu sai che devi dare lì quello che puoi dare, quindi il massimo, e non c'è più niente da fare, nel senso che a quel punto o la va o la spacca. O la spacca una volta per tutte. Sì, una volta per tutte. E quindi ci siamo effettivamente concentrati sulle nostre forze. Noi sapevamo di avere una forza importante, che le caratteristiche dei giocatori della squadra, con le loro caratteristiche, potevamo raggiungere veramente un grande risultato. Però se tu non lo esprimi, non lo esprimi. E scattate quando tu poi ti trovi di fronte l'Argentina, che è campione del mondo, e lì ti vengono fuori. Cioè, ti vengono fuori, non c'è niente da fare. Se tu invece giochi contro la Nuova Guinea o il Camerun o il coso, insomma, qualcosa ti rimane dentro, insomma, c'è un approccio diverso. E quando ci siamo trovati di fronte all'Argentina, insomma, poi c'era una voglia di dimostrare proprio quella di far vedere che eravamo ancora i bravi. C'era anche una condizione atletica che li evitava, perché probabilmente lo stesso Bearzot, ricordando il mondiale dell'Argentina, stupendo sì, qualitativamente forse persino superiore alla Spagna nelle partite più brillanti, però in discesa da un punto di vista, no? Da un punto di vista di rendimento fisico, senz'altro. Un po' in discesa. L'Argentina è servito no? Questo è servito molto, probabilmente le prime 3 partite giocate in un clima anche un po' umido, un po' fresco, di Vigo, ricordo, in Galizia, abbiamo giocato sui 18 gradi, 20, poi invece siamo saltati sui 35 di Barcellona, quindi è cambiato. E lì forse è servito il fatto che abbiamo, come dire, gestito un po' le nostre forze, energie, le nostre forze, sì. Senti, se tu dovessi dire io dico ansia da prestazione, vorrei sentire la tua chiave di lettura per un giocatore che sta 2 anni fermo per squalifica, gioca 3 partite di campionato, rientra in nazionale con il posto garantito, e quindi garantito dal CT, intendiamoci, e deve quindi come dire, sì, sdebitarsi in un certo senso. Sì. E credo che, non so, per me era una cappa fortissima questa. Cioè il fatto, io mi sentivo, come dire, fortemente. Poi in quel periodo si voleva per forza credere e pensare che io fossi il salvatore della patria, cioè che arrivassi io in qualche modo, una nazionale che un pochettino stentava con le prestazioni prima del mondiale, diceva, arriva, ritorna il salvatore della patria. Io mi sentivo tutto questo peso addosso, sulle spalle, sto fardello da portarmi appresso, e lo sentivo come, lo sentivo come il fatto che non riuscissi in qualche modo a esprimere quello che potevo esprimere e che sapevo fare, veramente mi pesava tantissimo, e volevo a un certo punto raggiungere il livello degli altri, e lo volevo raggiungere con tutte le mie forze, però in questa prima, nella prima fase ebbi grande difficoltà. E poi in compenso sei andato anche oltre, no? Gli altri, sì, nel senso che mentre, ma è bello, quello che Bernardo diceva sempre, il bello di una squadra è che la squadra, se tu credi nella squadra ed è una squadra vera, la squadra trascina te, e poi arriva il momento in cui tu ricambi e sei te a trascinare la squadra. È stata proprio così. Senti, mi segnalano dalla regia che c'è una valanga di persone che vorrebbe intervenire. Allora, visto che mancano 3-4 minuti, io mi fermerei con le domande mie, anzi mi fermo con un'ultima e poi lasciamo che siano un paio di ascoltatori a interloquire con te. Sì. L'ultima è questa: che atmosfera si era creata intorno a quella nazionale, se la mattina della finale, come tu racconti in dettaglio peraltro nel libro, arriva niente meno che il capo dello Stato, che si chiama Sandro Pertini, come fosse un tifoso qualunque. Era così, è arrivato pazzesco, è arrivato dentro l'albergo come fosse uno dei qualsiasi tifosi, volendo parlare con tutti. C'era mia madre, voleva parlare, voglio conoscere la madre di Rossi, fatemi la conoscere. Signora, sì così, capito? Poi avevo detto, te Antonioni ti sei fatto male, ma che hai fatto? Cerca di riprendere. E tu Paolino, mi raccomando, salta l'avversario, chi devo fare? Salta, chi devo saltare, perché ho visto che questi qua ti menano, ti picco, quindi stai attento, insomma. E quindi si è mischiato a noi, come, e noi questa cosa l'abbiamo sentita, cioè il capo dello Stato che arriva alla finale, insomma, persone di un'umanità straordinaria, meraviglioso. Io non so se c'è stato un diritto di precedenza per via delle origini, però chiama da Prato questo signore, si chiama Giacomo, dica, buongiorno. Buonasera signor Garanzini, buonasera anche a Paolo Rossi, abito a Prato e vi ricordo proprio con gioia quella sera, quel pomeriggio di Italia-Brasile 3-2, avevo da pochi mesi il motorino, il Ciao, e nulla, finita la partita un mio amico sapeva dove abita la mamma di Paolo Rossi e piombammo a Santa Lucia, due per motorino con le bandiere, e sembrava proprio che i Rolling Stones fossero lì a Santa Lucia invece che da un'altra parte, perché non ci si avvicinava alla casa, era una cosa incredibile, un'emozione unica, veramente bella. Caro Giacomo, grazie intanto per la testimonianza, devo dire che io ho ancora le fotografie di quei giorni, mio padre barricato in casa, mio padre e mia madre che abitavano in una casetta, la prima della fila di una lunga schiera di casa, e c'era un garage, e sopra questo garage si accalcava la gente, io c'avevo un piccolo giardinetto a casa dei miei, la gente arrivava, prendeva un pezzo di terra, se lo riportava a casa, comunque tutti a festeggiare i pratesi lì davanti a casa mia, insomma, per mio padre che era pratese, un orgoglio. Quindi fantastico. Era delle zolle antelitta. Sì. Dai, ancora uno, da Firenze, Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a Paolo. Buongiorno. Devo dire che io sono fiorentino, per cui siamo toscani tutti e due. Sì. È una grande emozione, ho 46 anni e devo dire che sono molto più emozionato a parlare con Paolo Rossi e con un sacco di altre persone. Lo ringrazio perché avevo 16 anni, quelle partite furono fantastiche, ma soprattutto Italia-Brasile, io ero in casa con mio padre che poi purtroppo è mancato. Purtroppo la vita fa la legge di natura. Quello è stato un momento fantastico, ero con mio padre e alcuni miei amici. L'adrenalina, vedere mio padre con una adrenalina addosso, al 3-2 praticamente eravamo talmente adrenalinici che quasi ci picchiamo dalla gioia, ovviamente. e tempo dopo mi ricordo che con mio padre diciamo, certo, quello è stato veramente tutti e due, prima e poi dopo, il nostro momento magico, più bello. Magico e che nessuno di noi dimenticherà mai, Alessandro. Guardi, io prenderei le sue parole quasi per chiudere questa conversazione, perché dobbiamo lasciare che parla. Ecco, nelle parole proprio sue c'è, e si sente, no? Lo trasmette, c'è questa partecipazione. Ecco, quel mondiale è stato partecipato da tutti, ma in maniera così emotiva e così forte che credo nessuno riuscirà mai a scrollarselo di dosso. Bisogna che lo freniamo un po' sto ragazzo, sto scrittore giovane, perché qui sta rubando il mestiere, secondo perché davvero le cose le dice sentendo, si capisce che gli sgorga da giù, e io lo posso dire perché insomma ne conosco tanti e non a tutti capita che lo sgorgo davvero sia così profondo. Allora ripeto, Paolo Rossi con Federica Cappelletti, la signora moglie, scrittrice, 1982, il mio mitico mondiale, edito da Kowalski. Paolo, grazie. Adesso io do la linea agli aggiornamenti dei mercati e poi ti saluto come si deve salutare un campione del grazie mondo. Grazie a te, Gigi. Sto cercando di stabilire qual è il messaggio più divertente tra le centinaia che sono piovuti in questa mezz'ora, e forse quello di Antonio da Brescia che scrive: per Italia Camero ero in collegio a Genova e stavo facendo gli esami di quinta elementare. Alla domanda poeta famoso con la Z, che sarebbe stato Emil Zola, risposi Dino Zoff, e fui graziato proprio perché c'era quell'atmosfera da campionati del mondo. Vabbè, non lo so, no, sinceramente dopo un pablito di questa dimensione faccio un po' di fatica, fa un po' di fatica a tornare in asse. E, tra l'altro poi non è l'unico Amarcord di giornata questo, ce ne sarà un altro tra poco dedicato a un'altra squadra di club stavolta, che oggi ha tanti motivi per far festa. Però, ripeto, lo studio è quello di Milano, ma idealmente è come se fosse quello di Torino, che attualmente è in funzione da qui a lunedì per il Salone del Libro, come Radio 24 è abituata a fare ormai da tanti anni. Allora vi segnalo un altro paio di libri ricevuti in questo periodo, per esempio questo di Fabio Caressa, il noto telecronista di Sky, che ha scritto Gli angeli non vanno mai in fuorigioco, ed è una favola del calcio raccontata a suo figlio, per Strade Blu di Mondadori. Poi c'è un curioso romanzo locale, diciamo, scritto da Furio Stella, per edizioni La Torre di Padova, che si chiama Il cameriere di Rocco. È un romanzo di fantasia che evoca ad un certo punto i fantasmi e le glorie del vecchio campo a piani padovano. Poi ci sono molti di voi che stanno premendo per intervenire, ma c'è tra poco, direi, perché prima c'è una notizia di giornata che... Notizia che forse poteva essere nell'aria, ma che adesso è diventata ufficiale, che noi ascoltiamo dalla viva voce del protagonista, cioè la voce di Alessandro Nesta. Sono stato benissimo, dove ho conosciuto brave persone, dove ho vinto tanto, però credo, per rispetto alla società, che prima o poi se no ci deve cacciar via, almeno mi deve cacciar via, e anche di me stesso preferisco andare a fare magari un'esperienza diversa, dove magari mi posso ancora divertire, posso ancora fare qualcosa di buono e andare avanti così. No, io mi riferisco importante giocando, cioè altro non so che devo fare. E quello lì, se non riesco a giocare sempre o periodi lunghi, partite importanti, così non mi sento bene, perciò è giusto che vado via. E quindi Alessandro Nesta lascia il Milan. Nesta, lo ricordo, se non ricordo male, del 76, quindi ha compiuto 36 anni. Ed è un'età in cui oggi è possibile, no, non che non lo fosse una volta, ma a maggior ragione oggi è possibile restare in campo e continuare. Costa Curta ha passato i 40 in campo, per parlare di un altro grande difensore come Nesta. Ma Costa Curta ha avuto la fortuna di godere di buona salute. Nesta purtroppo, da questo, buona salute atletica intendo, Nesta ginocchia, schiena e dintorni, purtroppo la sua carriera è stata segnata da disavventure di questo genere. Torniamo a Paolo Rossi. Giancarlo mi scrive da Milano: sono sul mio taxi con il magone. Ma perché Giancarlo col magone? Io trovo così invece allegro e festoso. Sì, certo, si pensa agli anni che sono passati, ma se gli anni sono passati così bene come sono passati per Paolo Rossi, è giusto, è bello invece ogni tanto, è persino tonificante ricordare intanto poter ricordare una cosa vecchia di 30 anni e poi ricordare una cosa felice, ricordarla in maniera allegra come, come ha fatto Paolo. Marcello ha chiamato da Milano, buongiorno. Caro Garanzini, buongiorno. E il magone ce l'ho anch'io, forse perché erano bei tempi, non lo so, forse eravamo giovani e vivevamo più spensierati, anche a me sentire Rossi mi ha fatto un'emozione particolarissima, non lo so, forse avremo qualche problema adesso, no, sia io che il taxista. Perché no, pensi che Claudio mi sta scrivendo la Cremona, io sto, ripeto, dragando questo, dice, io avevo un anno ma ho la pelle d'oca ad ascoltare Paolo Rossi sul mio trattore su cui sto lavorando. Io, questi sono i messaggi allora che adoro, perché poi l'idea, oltretutto, di compitare un SMS dal trattore la trovo una prudenza degna di Pablito. Dica. Sì, intanto le faccio i complimenti, l'ho visto vabbè, a Kai. Vabbè. E invece? No, le faccio i complimenti. Sì, ma lo sa che non è... mi fa piacere averla vista bene. Senta, no, Garanzini, in poche parole, siamo seri. Allora, Allegri, bravo. Capitolo Allegri, c'è sempre questa sorta di reverenza giornalistica. Metterei anche lei, Garanzini, verso Allegri. Secondo me Allegri non ha fatto affatto una buona stagione, ha fatto tanti errori. Le indico un paio al volo. Secondo, quando è andata a Torino in Coppa Italia, la persona intelligente avrebbe messo la seconda squadra, invece ha messo Thiago Silva, che si è rotto, tre giorni dopo l'ha rimesso con la Roma, neanche fosse il Real Madrid. Per me lì si è giocata la stagione, al di là poi dello scambio Pato Tevez, quindi il Milan secondo me l'ha perso più lui che ha vinto la Juve. Ultima cosa, ho visto una grande giocatore ieri che mi piace tanto, Falcao, volevo da lei un suo parere. Che se bravo. A qualcuno piace Falcao vuol dire che ha buon gusto, insomma, perché i due gol di ieri sera sono due gioielli, ma lui è un grande giocatore, era un grande giocatore prima di ieri sera e ieri sera in questa finale non ha fatto che confermarlo. Qualcosa ha sbagliato Allegri, lei ha citato due esempi, a me il momento in cui è piaciuto meno, se posso dire, è stato l'inizio del secondo tempo di domenica scorsa, quando miracolosamente in vantaggio per un regalo prima su rigore e poi per una grande prodezza di Ibrahimovic ha continuato a giocare con Boateng, diciamo, tra le linee invece di arretrare in mediana. Cambi non ne aveva più perché già si erano rotti in due e che si sarebbe rotto un terzo era scritto nel Vecchio Testamento di Milan Lab, però anche senza cambiare un uomo, insomma, io credo che Boateng 20 o 30 metri più indietro avrebbe dato qualche garanzia in più, coprendo magari dalla parte di Abate, ma insomma è acqua passata che non macina più. Ma visto che si parla di critiche ad Allegri, io sono davvero rimasto molto perplesso domenica sera per questo appunto mancato ritocco. Franco Bologna, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io volevo chiedere, purtroppo Paolo Rossi non c'è più, cioè non nel senso che nel senso che buono, nel senso che il taxi e sta recandosi a Sky, dica. No, beh, io all'epoca avevo 10 anni e lui era un mio idolo, cioè, però la causa della squalifica non l'ho capito, cioè, praticamente lui è stato squalificato da innocenza, non avevano prove su che base è stato condannato. C'è sempre un'accusa e una difesa, l'accusa sostenne che Paolo Rossi era al corrente di questa convin per Avellino Perugia, lui l'ha sempre negato e nel processo sportivo non si arrivò ad allora, mi pare, al processo penale, in ogni caso nessuno di loro, a differenza di alcuni protagonisti più recenti, hanno mai commesso nulla di penalmente rilevante, certamente non Paolo Rossi. Nel processo sportivo fu evidentemente creduta, chi doveva giudicare credette alla versione dell'accusa e non a quella della difesa. Lui in questo libro lo spiega che, e fa anche il nome di questo suo compagno che era Mauro della Martira del Perugia, che annunciò una combin, lui ebbe il torto di non denunciare innanzitutto e di pensare che tutto si sarebbe risolto senza conseguenze, perché poi la partita fu regolarmente giocata. Questa è la sua versione, che è la versione della difesa. C'è una versione dell'accusa e quella ebbe la prevalenza. Certo, Paolo Rossi ha passato 2 anni al palo e il fatto che abbia finito di scontare quella squalifica esattamente il 2 maggio dell'82 e che in 3 sole partite di campionato e poi 2 o 3 partite bruttine, da brutta a bruttine al mondiale, si è poi riuscito a rigenerarsi al punto di diventare Pablito, è uno dei miracoli veri della storia del calcio. Franco, grazie anche a lei. Tra poco cambiamo cambiamo capitolo, perché c'è un altro Marcord di giornata, dicevo, che insomma, credo che a Napoli stiano vivendo no, con una certa intensità sin dalle prime ore di stamane. 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia! Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, sono 2 anni che facciamo dei sacrifici e sono soddisfatto. Non eri nella pelle, guarda, abbracciavi i giocatori, guardavi l'orologio. Ho visto gli allenatori vincere gli scudetti, ma tu non hai saputo nascondere anche adesso. È vero, noi è 60 anni che qua non si vince, pertanto devi immaginare la pressione a cui siamo stati sottoposti per tutti questi 2 anni. Hai mai pensato di perdere questo? Beh, possiamo anche sfumare, io credo. Certo che la glaciale compostezza di Ottavio Bianchi anche nel momento del trionfo. Non è male, no? Da ricordare e da sottolineare, mentre un Galeazzi assolutamente sfrenato lo inseguiva per il campo. Bene, stiamo parlando evidentemente del 10 giugno del 1987, giorno del primo dei 2 scudetti del Napoli, ma insomma quello che è un po' come i 2 mondiali italiani del dopoguerra, no? Di cui si è parlato prima di uno, beh, insomma, diciamo che è il primo, quello che non si scorda mai e quello che rimane più sotto pelle. Indovinate dunque a che cosa è dedicato oggi la Marcord di Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 maggio 1987. Con un turno d'anticipo il Napoli è per la prima volta dopo 60 anni di storia campione d'Italia. Decisivo il punto guadagnato contro la Fiorentina. Carnevale porta in vantaggio gli azzurri al 29esimo. Il pareggio lo firma 10 minuti dopo il 20enne Roberto Baggio, al primo gol in Serie A. È un trionfo quello della formazione allenata da Ottavio Bianchi, che porta su tutte la firma di Diego Armando Maradona, ma che è arrivato anche con il contributo prezioso di Giordano Bagni, del regista romano arrivato nel mercato autunnale e dell'emergente Ciro Ferrara, di Bruscolotti, Renica, Ferrario, senza dimenticare i gregari Sola, Volpecino e Caffarelli. Il Napoli aggiungerà un altro tassello ad una stagione sensazionale con la conquista della Coppa Italia, battendo in finale l'Atalanta. E qui mi ricollego, visto che è una puntata in trasferta dal Salone del Libro, nel senso che non va in onda da Torino, va in onda da Milano, ma proprio perché a Milano è in trasferta, qui mi ricollego a questo libro edito da Mondadori che si chiama Il Napoli di Maradona, che è una rievocazione molto dettagliata e curata nei particolari, fatta dal nostro comune amico Marco Bellinazzo e a cui ha collaborato anche chi vi parla. Vi ripeto, il libro si chiama Il Napoli di Maradona, edito da Mondadori. Anche qua i messaggi oggi, come fai a sceglierne uno? Questo è carino, anche se non è firmato. Io sono qua, fradicio di sudore sull'autosole, scrive un ascoltatore, per l'emozione di ascoltare Pablito. E sono fradicio come quella notte meravigliosa dell'82, lo ero perché mi ero buttato vestito in una fontana di Bergamo. Diciamo che forse quella notte era anche leggermente più fradicio. Però insomma mi pare che tutto alla fine si tenga. Enrico Cesena, buongiorno. Pronto? Buongiorno Rica. Sì, no, volevo dire che a quell'epoca avevo 14 anni e quindi ero molto emozionato. Io lavoravo al mercato della frutta di Cesena e il mercato della frutta si è completamente fermato per Italia-Argentina, Italia-Brasile e quindi ce le guardavamo a casa. Pronto? Ma certo, sì Enrico, ho sentito, sono bei ricordi che tutti noi condividiamo, è giusta quell'osservazione di Paolo Rossi, che poi non è che sia originale, ma insomma non è la prima volta che viene fatta, e cioè ci sono eventi epocali come fu quel mondiale dell'82 in cui ciascuno di noi ricorda esattamente dov'era, con chi era e che cosa stava facendo in quel momento. Io personalmente, per me è più facile ricordare perché ero in una tribuna stampa aggiuntiva dello stadio Bernabeu, che era stata piazzata non al centro dove stava allora la tribuna stampa principale, ma proprio perché era aggiuntiva stava sotto alla tribuna d'onore, e avevo il presidente Pertini in asse perpendicolare, non so, una ventina di metri più sopra, quindi capisce bene che, e le dirò che qualche piccola sequenza di partita l'ho persa per voltarmi a vedere che cosa stava facendo il nostro presidente. Qua è ora di cambiare capitolo ed è ora di far partire la sigletta del Giro d'Italia. Voci dal Giro. Sì, sulla carta è una tappa per velocisti, però non si sa mai. Conosco un po', conosco il finale e diciamo che non è il classico finale tutto piatto per velocisti, quindi non si sa mai che magari si possa sganciare un gruppetto o qualcosa. Sicuramente da oggi inizio a essere più attivo anche nei finali. Finora ho cercato più che altro la gamba e la condizione, adesso sicuramente controllerò molto molto di più il finale, specialmente oggi, da oggi in poi sarò sempre attivo. Era la voce di Oscar Gatto della Farnese Vini, Neri Sottoli. Oggi c'è la Modena Fano, 209 km. La domanda del giorno per vincere il leggendario polsino di Radio 24 che Ivan Basso sta indossando al Giro d'Italia: se lo giudica, chi risponde correttamente via SMS per primo al numero 349-238-6666, visto che oggi stiamo ricordando e celebrando anche i 25 anni del primo scudetto del Napoli. Chi vinse quel Giro d'Italia del 1987? Inoltre vi ricordo, o infine vi ricordo, che per vincere la tappa sulla Miraglia del 20 maggio non dovete far altro che inviare entro il 15 di maggio un vostro ricordo del giro in 10 righe a datemporisport@radio24.it oppure nella sezione dedicata al giro sul sito www.radio24.it. Il racconto più bello tra quelli letti in diretta vincerà il premio che, ripeto, è una tappa, la tappa del 20 maggio sulla Miraglia. Se qualcuno desidera ancora intervenire, forse uno spazio ce l'abbiamo ancora, se no possiamo ascoltare forse un'altra voce tra quelle in dotazione per la puntata di oggi. Perché non Simeone, che ieri sera alla guida dell'Atletico Madrid ha vinto trionfalmente questa Europa League? Ecco Simeone. Sono molto contento con i ragazzi. Da quando siamo arrivati a dicembre, loro hanno risposto sempre a tutto quello che se le ha procurato e a quello che abbiamo richiesto. Si hanno visto sempre pronti per migliorare. Sono contento per i ragazzi dell'Atletico di Madrid, i tifosi che domani mattina si alzeranno presto per mettersi la maglia dell'Atletico. È quello bellissimo per noi che vogliamo bene all'Atletico di Madrid. Un grandissimo rispetto e ammirazione per Marcello. Marcello è Marcello Bielsa, l'allenatore del Bilbao, rivale sconfitto ieri sera. 30 secondi, ma d'orologio per Ettore dalla provincia di Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono orgoglioso di essere juventino, ma c'è un anti-juventinismo che è spettacolare, no? Però è difficile poi liberarsi di questa gobba maledetta, no? O dire orgoglioso, per modo di dire. Ma insomma, c'è un signore che a un certo punto nella trasmissione ha detto che lo scudetto non l'ha vinto Conte, ma l'ha perso Allegri. Ma no, ma santa Madonna, ma sta Juve la proprio slevale, no? Come si direbbe in piemontese. Ma io dico nell'82, no? Paolo Rossi, eccetera. E da lì in poi è partito tutto, no? Voglio dire, la stampa ha fatto scrivere anche a Cani e Porci quello che c'erano 7/11 di juventini con la squadra. Ettore, fantastico, io non so come ringraziarla perché lei ha salvato la statistica dell'ultimo intervento telefonico in diretta, che quello sempre, se lo conosci lo eviti, però non è semplicissimo conoscersi prima di fare intervenire. Grazie a Filippo Auregi in regia, Franco Piattanini in redazione, a Paolo Rossi con un abbraccio speciale, buon pomeriggio a tutti.